coltarìo, vano dissimularlo fora, alla novella aurora soliti saremo. Voi vecchici! Ma dei nostri nemici avremi vittoria, aria abbiamo allora a redir, sangue e coraggio. Tu valle belli che offre nell'assenza mia breve, a te commetto e nulla manchi. Di qual pietra luce i nostri membri splende? Il presagio funesto desperdiata. Ha ha ha!